E allora buonasera, buonasera a tutte e a tutti, nuova puntata di Entropia Massima, questa sera puntata particolare registrata, quindi non siamo in diretta da Via dei Volsci ma siamo distribuiti tra Roma e varie parti d'Italia. Siamo con Marco e diciamo della redazione classica solita, ma anche con Daria da Verona e Andrea da Genova. E questa sera affronteremo due temi fondamentali. Il primo, appunto, con Daria e Andrea, riguardante la nuova didattica a distanza e che cosa c'entra con il tema della trasmissione Emergenza Zero e Scienza e Potere. Diciamo che è più dettata dalle contingenze e dalla nostra esperienza quotidiana, che ormai ci prende così tante ore da essere praticamente soltanto, cioè siamo dedicati soltanto a questo, e questo è anche un aspetto molto particolare che vorremmo affrontare. Quanto questa didattica a distanza venga poi percepita sia dai docenti che dagli studenti. E nella seconda parte della trasmissione faremo sempre il solito collegamento con Paoletto, sempre in registrazione, sempre registrato, sempre a distanza, su aggiornamenti acqua pubblica. Quindi direi di iniziare un po' su una traccia, cerchiamo di affrontare una serie di temi che anche scambiandoci, chiacchierando prima della trasmissione, abbiamo visto essere i punti focali diciamo nodali, le problematiche più importanti, più evidenti. Inizierei sicuramente con il problema del digital divide, cioè del quanto si riescono a raggiungere tutti gli studenti, per poi andare anche sull'organizzazione interna del lavoro e anche anche volendo sul concetto stesso di istruzione e confrontandolo con l'idea di educazione, di quello che normalmente si fa in una classe. Quindi darei la parola a Daria per raccontarci un po' come è stato il passaggio dalla normalità della classe alla didattica a distanza, che a Verona penso sia stata la prima fra di noi a essere passata su questo tipo di didattica. Sì, in effetti a Verona ormai è un mese che non andiamo a scuola e ci ha accolto relativamente preparati, nel senso che nell'istituto nel quale lavoravo era stata già impostata la piattaforma G Suite, per cui i docenti che avevano interesse rispetto a questa cosa avevano già attivato la piattaforma, quindi Classroom, che è lo strumento che G Suite mette a disposizione, e quindi i ragazzi erano anche già formati, diciamo, già in grado di preparare un PowerPoint online, di vedere dove vengono messi i materiali, condividerli, per cui da questo punto di vista c'era una piattaforma pronta, ecco. È chiaro che nonostante questo non significa che fossimo preparatissimi, però questa cosa un minimo ci ha aiutati, ovviamente con i limiti dello strumento tecnologico, cioè di quei ragazzi che alcuni ragazzi non siamo riusciti in effetti a raggiungerli e a tutt'oggi non riusciamo a raggiungerli. Ecco, io partivo anche questo è un argomento secondo me importante da affrontare e su cui io personalmente ho avuto proprio delle remore, nel senso proprio sull'utilizzo di quale piattaforma, perché stiamo parlando di G Suite, che è per Google, e che quindi presuppone, sì, adesso è stato fornito gratuitamente nell'emergenza, però è un, diciamo, ovviamente è Google, è tutto il sistema di Google che conosciamo, azienda privata, multinazionale, eccetera, eccetera. E quindi il fatto di portare uno strumento del genere all'interno della scuola pubblica, facendo poi alla fine moltiplicare in maniera esponenziale gli accessi, perché ogni studente poi alla sua mail, anche se non direttamente di Google, però diventa quella effettivamente dell'istituto, anche se il nome appare con il nome dell'istituto, però è un account Google a tutti gli effetti, quindi questo moltiplica esponenzialmente i clienti Google. E secondo me questo è un problema grande, nel senso, io l'ho sentito, poi sì, come strumento è utilissimo e ottimo, però a livello di diffusione di un pubblico, di un privato, di un'azienda privata nel pubblico, insomma, la trovo un punto da analizzare in maniera un po' più approfondita, ecco. E sì, è stato preso sicuramente con leggerezza, cioè il passaggio a dire bene, digitalizziamo la scuola. E la proposta dell'animatore digitale del mio istituto è G Suite, perché G Suite lo era già gratuito per le scuole. E quindi, quale più semplice? Google lo usiamo tutti, Gmail ce l'hanno quasi tutti, per cui diventa la facilità di uno strumento che bene o male già comprende come gira su quella piattaforma. E in effetti qui è la scuola che manca, perché in un sistema ideale la piattaforma è del MIUR, esattamente, pubblica. Questo secondo me è un punto molto importante. Ma quindi non esiste una piattaforma pubblica al momento? Cioè non è stata utilizzata, o proprio non esiste per niente, o sapete se magari è in programma o stanno cercando di organizzarla su Indire, credo. Però diciamo che un po' come tutti i siti pubblici, soprattutto delle scuole, sono un po', cioè, un po' la preistoria, hai la sensazione un po' della preistoria dopo essere stato su G Suite. È chiaro che se si fa una piattaforma deve essere una piattaforma valida e smart, nel senso di immediata per i ragazzi. Sì, diciamo, l'impressione appunto anche da parte mia qua a Genova, che poi credo sia poi il problema che si è posto praticamente in tutta Italia, cioè di questa moltiplicazione dei pani e dei pesci, quindi questa presenza, diciamo, di innumerevoli strumenti. Io devo dire appunto ho avuto facilità nel passaggio alla didattica a distanza, per quanto riguarda le ore che faccio con la scuola superiore, e anche nell'istituto dove sono io appunto utilizzavano già da tempo la piattaforma G Suite, e con quella appunto siamo riusciti più o meno rapidamente, perché a differenza di quello che raccontava Daria, nel nostro istituto non c'era stato, diciamo, un avvicinamento così lungimirante negli anni precedenti, quindi c'è stato un attimo di marasma nelle primissime giornate, diciamo, dei blocchi della scuola e poi addirittura dell'emergenza, che è andata intensificandosi. Invece ho avuto modo di vedere, di osservare il panico e, diciamo, il grande disorientamento nella scuola media, dove invece ho altre ore di supplenza. Questo poi magari è un aspetto che potremmo riconsiderare, cioè il fatto che ci sono supplenti, ci sono realtà di tantissime persone che devono avere, diciamo, non il potere dell'ubiquità, ma non so, una divinità a sei mani e a sei cervelli, perché chiaramente cosa succede? Per esempio nella scuola media sono saltate fuori ovviamente altre proposte, altre piattaforme, altri strumenti, e chiaramente il multitasking diventa qualcosa di di assoluto, cosa non così immediata e poi fondamentalmente non così gestibile, perché uno può essere più o meno giovane, più o meno reattivo a livello tecnologico, ma chiaramente una linearità di strumenti ti può facilitare. Doverti imparare nell'esigenza dell'urgenza di partire il prima possibile a doverti studiare da solo tutorial piuttosto che altro, a me non l'ha spiegato nessuno, mi sono più o meno cimentato e poi pian piano, insomma, anche con i ragazzi che alla fine si rendono, sai, di solito in queste situazioni più disponibili quello che uno si immagina, si è trovato un accomodamento, vediamo, funziona così, funziona colà e pian piano. Quindi ecco un aspetto sicuramente che sul fronte, diciamo, di un'emergenza si sono però visti anche tutti i limiti del fatto che ci sono tanti strumenti che le scuole hanno adottato ma non a pieno, cioè nel senso adotto la piattaforma G Suite, nella scuola di Caterina, la mia compagna, usano la piattaforma Microsoft, quindi Outlook 365, usano Teams, che è un'altra applicazione ancora, che praticamente fa le stesse cose delle altre di cui abbiamo parlato, delle altre applicazioni, però chiaramente ci vuole tempo e in alcuni casi so di scuole che ci hanno messo più di 2 settimane per mettere a regime i docenti, se non addirittura 3 settimane, nel vuoto, cioè nella condizione in cui assegnavi compiti e non riuscivi però a comunicare con i tuoi studenti. Se volete vi racconto la mia, nel senso che io ancora sono senza una piattaforma unitaria, non abbiamo ancora niente di unitario, abbiamo da registro elettronico una serie di possibilità, ma non eravamo assolutamente digitalizzati né G Suite né niente, quindi eravamo completamente a digiuno di didattica digitale, didattica a distanza, giusto pochissimi volenterosi avevano qualche personale iniziativa, ma non c'era assolutamente niente a livello diciamo di istituto, e quindi ancora stiamo facendo fatica, stiamo ancora ognuno con le proprie, ognuno decidendo cosa e come. E si fatica parecchio, proprio per non avere, c'è libertà da questo punto di vista, e anche questa è una cosa positiva, nel senso che stiamo imparando tutti quanti, come dice Andrea, e il fatto è chi più chi meno, perché appunto il digital divide si vede anche su questo, c'è chi prende in mano e si forma e si autoforma e chi no. Allora, come regolamentare questo? Quando si era in classe le ore erano quelle, bene o male il lavoro era quello, adesso diventa molto difficile, perché devo dire come c'è la difficoltà di raggiungere gli studenti, in alcuni casi c'è anche difficoltà di raggiungere i professori. Che succede, non tutti stanno in zone, e per esempio qua a Genova è diffusa la condizione di chi appunto vive nelle frazioni o nei paesi più, diciamo, distanti, o comunque nelle condizioni classiche da campagna italiana, dove appunto la connessione è scarsa, va e viene. E quindi chiaramente persino il docente, in alcuni casi dei colleghi di classe che si collegavano, perché poi in tutto questo non abbiamo detto che consigli di classe, collegio docenti, tutto in videoconferenza, certo. In questo periodo gente che vagava nella piazzetta del paese a cercare l'hotspot. La cosa poi è doppia, è sia tecnologica ma sia anche proprio di formazione, nel senso appunto dal punto di vista dei professori c'è anche, se vuoi, gap generazionale, che poi non sempre è vero, perché poi ci sta anche chi è partito in quarta e magari non te lo saresti mai aspettato, però c'è una difficoltà nell'uso della strumentazione che può essere, che si fa sentire parecchio all'interno dei consigli di classe. Sono professori che sono proprio, come si può dire, hanno un rifiuto rispetto a questo tipo di didattica. D'altra parte posso dargli torto fino a un certo punto, nel senso che quello che è importante che non passi, soprattutto in questa fase, è che in qualche modo la tecnologia possa sostituire la presenza fisica nelle classi e quindi la didattica in presenza. Allora, perché secondo me c'è tra chi, tra i docenti che non sono informati, digitalizzati, diciamo, c'è chi non lo vuole fare per un gap generazionale, ma anche chi è restio a farlo perché il rischio di trasformare l'educazione in istruzione e basta, cioè dove trasferisco di sapere ma non educo, è alto. Anzi, diciamo che il digitale sente poco spazio all'educazione, tanto spazio sicuramente all'istruzione. Però il nostro lavoro, soprattutto nel primo ciclo di istruzione, appunto, è educante. Daria, ti interrompo un momento, riprendiamo il discorso dopo una brevissima pausa musicale con Balkan Beatbox. Allora, eccoci di nuovo in voce con Entropia Massima, Emergenza Zero in differita. Questa puntata è registrata, come abbiamo detto già all'inizio, per le questioni che tutti conosciamo. Quindi anche per questo noi oggi parleremo di qualcosa di un po' al di fuori dei nostri temi consueti, però... le nostre esperienze attuali, non la mia in realtà, io non sono nel mondo della scuola, però degli altri tre di noi che sono in trasmissione, stiamo parlando della situazione, di come viene affrontata questa emergenza sanitaria, però dal punto di vista scolastico. E ci siamo lasciati con Daria, che ci sta parlando da Verona, con il rapporto tra istruzione ed educazione in questo periodo in cui le lezioni vengono fatte fondamentalmente non in presenza, ma tramite internet. Sì, sì, quello che stavo dicendo è che, insomma, dal mio punto di vista mi sembra abbastanza evidente che se la tecnologia è necessaria a questo punto, in questa situazione particolare, lo è in realtà, è uno strumento molto utile e forse necessario considerando che i ragazzi sono nativi digitali per fare una buona scuola oggi, ma non è, non può essere abbandonata la scuola in presenza e ovviamente quello che viene a mancare in questa situazione qui è proprio... la parte educativa che un docente può fare, o quantomeno è molto molto limitata. E proprio perché lo strumento è, è quello strumento freddo che è il computer, quindi che viene un po' a mancare l'umanità necessaria per dirsi veramente in un percorso educativo. Io su questo, scusami, ti interrompo perché voglio essere anche un po' provocatoria, nel senso, assolutamente sono d'accordo sul fatto che la presenza, il rapporto, lo sguardo, ma anche proprio per un fatto di linguaggio del corpo, di come ci si pone, di come si interagisce, qui è tutto molto statico, molto fermo. La cosa che noto durante le lezioni, comunque in diretta, nel senso non la videolezione registrata, ma quelle in presenza, è che stranamente si replicano in maniera quasi pedissequa, quasi proprio identica alcune dinamiche della classe, cioè il giullare continua a fare il giullare, chi è il distratto continua ad esserlo, chi alza la mano in classe la alza anche in videoconferenza. E la cosa particolare è che invece sto notando che si riesce a lavorare molto su alcuni aspetti che in classe quasi si faceva più fatica, ad esempio il silenzio e il turno della parola sono molto più evidenti in una videoconferenza rispetto alla no, non sono più evidenti, diciamo che necessitano ancora un'attenzione maggiore. Io sto parlando sempre di primo ciclo e in particolare di classi prime, quindi sono molto piccoli e noto che ci stiamo affinando molto su queste dinamiche proprio del turno di parola rispetto dell'altro, nello scambio di opinione e anche nella gestione del gruppo, perché io metto uno che mi fa da report e tutti sono silenziati perché altrimenti si sentono tutti i rumori privati, che anche questo poi è tutto un altro capitolo da affrontare, perché si entra nelle case di tutti e tutti entrano nella tua casa, quindi questa è tutta un'altra dinamica molto molto molto importante, un altro tema molto importante da affrontare. Però ecco, volevo essere provocatoria su questo, cioè sul fatto che sì, non si può assolutamente paragonare in maniera assoluta su come tematica, assolutamente è prevalente l'aspetto istruzione rispetto a quello educazione, però secondo me qualcosa si può riuscire a riuscire, possiamo dire che riesce e lavori su alcuni aspetti sicuramente, e lo fai perché tu con i ragazzi hai già una relazione, hai costruito una relazione in presenza, e questa relazione costruita ti consente di utilizzare lo strumento tecnologico anche come strumento educativo. Assolutamente. Sì, perfetto, perfetto. Sì, questo penso anch'io sia fondamentale, appunto da neofita, diciamo, docente. Io appunto sono entrato nel mondo della scuola da pochissimo, da ottobre dell'anno scorso, però quello che ho notato invece è, per esempio, per quanto riguardava sia il discorso a cui accennava Daria all'inizio del rientro dalla pausa musicale, sulla questione dei nativi digitali. Me lo sono posto anch'io, inoltre perché nell'istituto tecnico dove sono, le mie classi sono a indirizzo informatico e telecomunicazioni. Sono rimasto colpito da come in realtà questo concetto di nativi digitali poi in realtà sia molto diverso da quello che uno si immagina, cioè ci sono veramente delle spade a livello tecnologico, cioè ragazzini che sono dei mostri, ragazzini che sui cellulari gestiscono da remoto durante, vabbè, anche le ore in presenza, i computer della famiglia, degli amici e quant'altro, e chi invece annaspa tanto, quindi qui ritorna un po' un digital divide un po', diciamo, rivisto e corretto, perché appunto mancano più che degli strumenti economici o, diciamo, infrastrutturali, quindi le connessioni, e gli strumenti culturali, perché semplicemente magari è una famiglia che ha un'impostazione un po' più tradizionale, un po' come potevano essere le nostre famiglie, quindi non sono così spinti sulla tecnologia, o anzi, peggio, alcune volte invece magari sono ragazzini un po' soli e quindi non sono particolarmente dei draghi loro e quindi faticano ad agganciarsi. E altro aspetto invece consideravo la questione di come si sono riorganizzate le tradizioni della classe. In alcuni casi, un po' rari però, è capitato, ho riscontrato dei cambiamenti, cioè chi era un po' la pecora nera della classe o comunque aveva difficoltà, rientrava in un certo schema e lo recitava anche lui, insomma, come parte, in realtà ha completamente rivisto il suo ruolo. Ovviamente sono ragazzi di 14 anni, di 15 anni, quindi non se ne rendono conto, però ho trovato in alcuni casi quasi una maggior tranquillità, forse fuori da quella tensione della classe, come se riuscissero a essere un po' più sereni. Anche il fatto, cioè, perché ci viene detto a scuola di abbandonare il più possibile la didattica frontale? Perché è piatta, no? E diciamo, vai verso i ragazzi dando sempre la stessa cosa, aspettandoti sempre la stessa cosa, e riescono sempre gli stessi. Quando tu differenzi l'offerta, quindi per esempio aggiungendo una tecnologia, riesci a valorizzare intelligenze differenti, per cui la carta vincente è utilizzare tanti strumenti, tante strade. In quella maniera riesci ad accogliere i diversi soggetti, le diverse soggettività, e a farle, come dire, fiorire, che è poi il nostro lavoro, insomma. Per cui in quel caso lì tu trovi, non so, il ragazzino che in classe si stufa tantissimo, si annoia da morire, che però c'ha il gusto della tecnologia, e quindi te lo ritrovi con tutta un'altra anima all'interno della videoconferenza. E questo a prova che la cosa è differenziare, prenderli da diversi punti per far sì che le loro diversità possano essere valorizzate, in particolare per loro, perché sono i ragazzi che hanno bisogno di sentirsi di valore, insomma, no? Quindi lo strumento ti svela queste cose qua, e questa è una roba bella. Oh, ecco, e questo infatti poi, questo argomento fa da ponte a quello che voleva essere un po' il rilancio, e forse l'ultima parte della trasmissione, cioè il cosa sarà dopo. Cioè, nel senso, questo ci siamo trovati da un giorno all'altro catapultati in questo universo di quattro mura e di apertura, e per necessità doverci spostare sull'utilizzo di queste tecnologie. Appunto, chi c'era già abituato da prima ha avuto molta meno difficoltà, chi aveva già gli strumenti è stato lanciato subito in questa dimensione, chi ancora fa fatica e chi ancora proprio non c'è entrato e arranca. Questo passaggio lascerà un segno, cambierà qualcosa, nel senso, questa differenziazione di cui tu parlavi, che effettivamente può essere doveva essere già affrontata da prima, e già se ne parlava da prima, sia differenziare sul metodo visivo, uditivo e questa serie di cose, ma anche proprio sulla tecnologia, perché in molti casi ci troviamo anche nella condizione in cui sono loro che ci dicono come fare le cose, perché su queste piattaforme sono spesso molto più veloci, e quindi l'idea del prospettarsi il come andrà a finire, il cosa sarà dopo. Intanto abbiamo le prove della flipped classroom, no? Cioè, adesso sono veramente loro che in certi casi insegnano a noi. Quello di aspettarsi dopo, bisogna vedere come si mette la scuola, perché è sempre poi una questione di organicità, no? Nel senso che il digital divide diventa, lo assottigli o lo rendi poco incisivo nel momento in cui tu strutturalmente e in maniera organica su tutta Italia agisci in quella direzione, come sulla continuità didattica. Se agisci in maniera organica, strategica, perché hai come principio quella cosa lì, oppure che un professore semplicemente non può non fare una formazione digitale, non può non avere una formazione digitale, come non può non avere una formazione in inglese, voglio dire. Perché? Perché noi abbiamo di fronte allievi che non sono quelli di 30 anni fa che internet non sapevano neanche cosa fosse e che noi quindi siamo chiamati a essere docenti anche in questo senso. Forse questa cosa qua oggi sarà un po' più evidente a chiunque. Però la domanda è strategicamente il MIUR agirà perché questo diventi una norma in tutti i sensi? Sì, sì. Significa che lo sia poi? Sì, assolutamente. Anche questo è il tema fondamentale. Sì, diciamo che riuscire a capire poi come evolverà è interessante e sicuramente appunto immaginare come questi strumenti, come diceva Daria, potranno essere integrati ovviamente alla didattica frontale sarà molto interessante, anche perché forse riuscirà in qualche modo a levare anche un po' di naftalina dalla scuola italiana, perché comunque, insomma, diciamocela tutta, io quel poco che ho visto e quel poco che ho provato su, diciamo, la mia pelle da dover appunto entrare in una classe senza che ci si viene, diciamo, reclutati, senza che in realtà poi si passi da nessun tipo di preparazione o allenamento. Questi avvengono e arrivano semmai dopo, in fase di preparazione, concorsi e poi, diciamo, messa in ruolo se uno poi decide di farlo, visto che nel mio caso ancora sto valutando, però io mi sono reso conto di come appunto poi la scuola sia ancora quella che si deve basare sulla buona fede, la buona coscienza, il senso, diciamo, di responsabilità del singolo, che vale sempre come principio, però non dovrebbe essere l'unico elemento o uno dei mattoni fondamentali. Invece qui si nota molto, diciamo, nell'ordinario e si amplifica nello straordinario, perché intendiamoci, non perché, vabbè, io quello che ho visto è mi fa piacere, sono contento e mi conferma qualcosa che già immaginavo, cioè la stragrande maggioranza di ognuno di noi, che sia un dipendente della scuola italiana o un cittadino come in fase di emergenza ora, è responsabile, un minimo di senso di responsabilità ce l'ha, però intendiamoci, se uno volesse si potrebbe dare alla macchia, cioè caccia qualche compito sull'agenda del registro elettronico e fondamentalmente in questo momento si potrebbe andare così. Quindi insomma si dovrebbe partire già dai reclutamenti delle persone e quindi immaginare che il docente va avvicinato gradualmente a tutti questi strumenti invece che poi immaginarsi che così d'amblè riesca a essere in grado di reggere la parte, perché appunto è una sfida, un'impresa pazzesca quella di conciliare sia la parte, diciamo, educativa frontale quant'altro e sia poi tutto questo utilizzo di strumenti vari. Ok, direi facciamo un'altra pausa musicale e poi vediamo di concludere nell'ultima parte. chiaro che in questo momento di emergenza, in cui la didattica si sposta online, diventa fondamentale aver cura di appunto della continuità didattica e di istruzione. E questo perché è sempre vero, e lo è ancora di più in questo momento, che condizio sine qua non è quella di avere una relazione con gli studenti, perché è quella relazione che poi diventa il pilastro educativo. E in questo purtroppo ci troviamo di fronte a un'assenza strategica di fatto della volontà appunto diciamo ministeriale, e quindi se il precariato è da sempre un problema della scuola, e a quanto pare lo sarà in particolare l'anno prossimo, in quanto sembrerebbe che tutta questa situazione impedirà la possibilità di fare i concorsi previsti, e quindi che ci si troverà a settembre con un'ondata di precari ancora più grande di quella a cui già siamo abituati. E questo ci porta di nuovo di fronte a un annoso problema che diventa ancora più evidente in questa situazione, cioè appunto quello della continuità didattica, che è un principio che in realtà viene ribadito nella normativa dell'istruzione in innumerevoli norme e note ministeriali. E in particolare interessante la nota ministeriale che viene divulgata a tutti gli insegnanti intorno al 13 di marzo, in cui si fa viene comunicato a noi docenti, vengono comunicate una serie di metodologie, di canali attraverso le quali possiamo fare didattica, e ci viene raccomandata la cura alla socializzazione, alla relazione interpersonale. E quando mi è arrivata quella nota ministeriale, io ero stata licenziata il giorno precedente, esattamente il 12 di marzo. E nella mia situazione, per un ricorso andato male, e devo dire la verità, mi aspettavo, in generale me lo sarei sempre aspettato, me lo aspettavo in particolare in questo frangente, che vi fosse la possibilità, appunto dettata dalla normativa, di far sì che io potessi portare le mie classi alla fine dell'anno. Ma come è vero che le supplenze vengono date da anni fino ad avente diritto, questo odioso termine che ci indica che i provveditorati non sono in grado di aggiornare le graduatorie di istituto entro settembre, e per cui i docenti sistematicamente da anni vengono cambiati a ottobre, novembre, dicembre, addirittura gennaio. Imponendo quindi ai ragazzi appunto un cambio di docenza che va assolutamente contro quanto viene indicato dal Ministero stesso. Quindi quello che si legge è da un lato una volontà scritta, un principio che si dice di perseguire, e dopo l'assenza di norme che consentano l'effettiva persecuzione di questo principio, e questo è particolarmente odioso in questo momento, ecco. E poi il licenziamento è arrivato in piena didattica a distanza a Verona. Esattamente, in piena didattica a distanza, con mi sono ritrovata di fronte una dirigente che cerca di convertire il mio contratto a tempo indeterminato con un contratto al 30 giugno, con i provveditorati che dicono in effetti in questo momento sarebbe molto importante continuare, ma purtroppo non abbiamo le norme che ci consentono di fare questo atto. Conclusione, la pagano i ragazzi. Conclusione è che la pagano i ragazzi. Ecco, anche perché, ricollegandoci a quello che dicevamo nella prima parte, ha senso parlare di educazione soltanto nella didattica a distanza, soltanto nei termini in cui abbiamo un'impostazione precedente avvenuta in classe, un legame, un rapporto, direi anche un'empatia, no, di relazionale con i ragazzi, costruita nel tempo, costruita con ragionamenti fatti insieme, con la parte emotiva, cosa che ovviamente diciamo nella didattica a distanza tramite finestrelle, quello che riusciamo a passare è un discorso prevalentemente appunto istruttivo, contenutistico, poi anche volendo di piccoli passi di elaborazione possono esserci senza dubbio, ma quello che può passare di educazione è perché c'è stato un pregresso prima, c'è stato un discorso di elaborazione in classe e già siamo a metà anno, quindi questo vuol dire che c'è stato già una gran parte di percorso fatto insieme, cosa che effettivamente partire da zero utilizzando questo tipo di piattaforme, penso che sia molto difficile, penso che sia molto difficile e riduttivo, nel senso si punta soltanto a mettere un cerotto, una pezza e appunto quello che poi va, come dicevi giustamente, a discapito della formazione in generale, completamente contro qualsiasi linea pedagogica, dove in qualsiasi campo pedagogico ci viene indicato quanto è importante la relazione, cioè che è sulla relazione che si appoggia la possibilità di istruire, di educare. Quindi se ci giochiamo quella, cioè facciamo finta che quella non sia così importante, diventa un trasferimento, un mero trasferimento di conoscenze. Quando noi sappiamo anche dalle linee guida ministeriali che questo non è istruzione, educazione, e però d'altra parte ci ritroviamo che questa situazione emergenziale mette un fuoco particolare e amplifica la problematica per il tema che dicevi tu, però di fatto è un problema che esisteva già, perché comunque impostare un lavoro da settembre a dicembre con una classe e poi ritrovarsi a cambiare docente è la stessa identica cosa, cioè vuol dire che le classi, i ragazzi e i docenti fanno di nuovo la fatica di ricucire una relazione e sono mesi persi, perché soprattutto se ci diciamo di quanto sia importante la soggettività, cioè che ogni ragazzo ha le sue peculiarità e che il nostro lavoro fondamentalmente è differenziare l'attività e la proposta didattica sulle loro specificità, questo è chiaro che richiede una conoscenza approfondita dei ragazzi e quindi una relazione. E ancora una volta in questa situazione emergenziale viene fuori quanto poco sia perseguita effettivamente questa cura e quanto non lo sia comunque mai, perché non ci si attrezza ad evitare questo annoso problema. Ecco. Bene, direi che per questa puntata abbiamo soprattutto esaurito il tempo, di certo non gli argomenti, nel senso che volevamo fare un focus anche in particolare poi nella didattica a distanza sulle scienze, e cosa che rimanderei a questo punto a una successiva trasmissione, e con lo scopo anche di monitorare e di continuare a tenere gli occhi bene aperti sulle dinamiche, su queste nuove dinamiche che stiamo affrontando, che stiamo vivendo tutti quanti sulla nostra pelle. Quindi rimandiamo un ultimo stacco musicale della trasmissione, un saluto a Daria. Ciao! E a presto e a risentirci tra qualche minuto. You know, I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Seguiamo la puntata finendo sempre sul aggiornamenti da Acqua Pubblica con Paoletto. Sì, buonasera a tutte e tutti in questa dimensione innovativa e particolare, a distanza ovviamente. E sì, proviamo a fare un aggiornamento prima di entrare nel vivo della questione. Credo che andrebbe un minimo contestualizzata anche la battaglia dell'acqua e al tempo dell'emergenza sanitaria, che ovviamente porta e impone a tutti di riaggiornare un po' il proprio discorso, il proprio ragionamento, il proprio percorso, visto che questa crisi sta mettendo in luce una serie di questioni di fondo che magari in tanti di noi avevano provato a evidenziare anche nel passato, ma che non erano mai emerse con questa forza. Il fatto che questo sistema mette sempre più in pericolo e sotto attacco i diritti fondamentali, e quello di cui ci stiamo accorgendo è che addirittura si rischia di mettere in pericolo il diritto alla vita, viste le tante vittime che sono, da una parte sì, l'effetto della virulenza del coronavirus, ma sono soprattutto l'effetto e la conseguenza di un attacco pesantissimo che è stato fatto negli anni al Servizio Sanitario Nazionale con il suo ridimensionamento e la sua privatizzazione, e quindi credo che questo sia un po' la causa profonda di questa crisi, e che ovviamente non è molto diversa da quella che noi critichiamo da tempo rispetto al servizio idrico, il fatto che appunto a partire da metà degli anni 90 si sia avviato un processo che è quello di cessione al mercato e alla logica del profitto dei beni comuni e quindi anche dei servizi, che sono gli strumenti che possono garantire tali beni comuni e i diritti alle persone. Ed è evidente che a un certo punto i nodi vengono al pettine. Abbiamo da subito, da quando diciamo è iniziata a evidenziarsi con più forza questa crisi sanitaria, abbiamo da subito chiesto, anche attraverso una petizione, il fatto che il governo si muovesse per impedire e imporre il divieto dei distacchi ai vari gestori, perché i distacchi del servizio sono proseguiti in questi anni imperterriti, è diventata diciamo una forma di riscossione del credito, quindi tramite un sostanziale ricatto ti stacco l'acqua in modo che tu sei costretto a pagare, e proseguivano anche dopo i primi giorni, la prima settimana, i primi 10 giorni era emersa con tutta la sua forza la crisi sanitaria, soprattutto al nord, e fortuna è intervenuta l'autorità di regolazione, che ha imposto ai gestori che non ne volevano sapere, notizie anche interne di soprattutto di Acea, quindi dell'azienda che ci riguarda da vicino, è che lavoratori e sindacalisti avevano chiesto con forza che Acea riattaccasse l'acqua a coloro a cui l'aveva staccata da poco e che si interrompessero i distacchi, ma ovviamente il management se n'era fregato altamente di queste raccomandazioni fino a che non è stato imposto dall'autorità di regolazione. Quindi questo ce la dice lunga anche sul cinismo, no? Di queste persone che magari poi davanti alle telecamere ovviamente fanno un viso a cattivo gioco e ci raccontano di come sono bravi e di come sostengono le istituzioni nell'emergenza, ma poi in realtà guardano solo esclusivamente a far cassa fino al momento in cui non gli viene imposto sostanzialmente con la forza. Quindi questo è quello che abbiamo fatto da subito, e poi ovviamente abbiamo però visto appunto l'allargarsi dell'emergenza, abbiamo così condiviso il fatto che sia doveroso appunto avviare una riflessione che sia molto più ampia, che vada molto al di là rispetto anche alla sola questione dell'acqua, e che guarda appunto al fatto che ci sia un sistema e ci siano state delle politiche negli ultimi 20 anni che hanno aggredito pesantemente i diritti fondamentali, e oggi noi ne paghiamo le conseguenze, e il problema è che ne pagheremo le conseguenze anche in futuro, da una parte perché ovviamente si sta palesando purtroppo una crisi economica che sarà anche sociale, probabilmente molto più pesante di quella che c'è stata nel 2007-2008, di cui ancora poi oggi vedevamo gli strascichi, e che quindi si diciamo approfondirà nuovamente molto pesantemente rispetto soprattutto alle fasce più deboli. Dall'altra parte ne pagheremo le conseguenze perché ci avviamo ovviamente in un periodo in cui i cambiamenti climatici avranno un impatto, e lo hanno già un impatto fortissimo, soprattutto sulla risorsa idrica, sulla vita delle persone, e allora tutti gli studi ci dicono che emergenze come questa, magari non dovute a una pandemia, ma dovute a una crisi idrica forte, le dovremo vivere e sopportare via via sempre di più nei prossimi anni. E quindi è evidente che o proviamo a invertire la rotta e a far sì che tutto non torni come prima, ovvero bisogna tornare a una normalità, ma non la normalità del tema che ha guidato le nostre vite fino a qualche giorno fa, perché è evidente che se sarà così, diciamo, tutto questo dramma e criticità che stiamo vivendo sarà sostanzialmente inutile. Quindi sta un po' a tutte e tutti noi ragionare con intelligenza e creatività per mettere in campo iniziative e percorsi che possano evitare, appunto, che si ritorni a tutto come era prima. Oh, ecco, poi stiamo registrando la puntata proprio oggi, 22 marzo, che è la giornata mondiale per l'acqua. Quindi volevo chiederti, diciamo, ho visto comunicati stampa del forum per l'acqua pubblica, volevo chiederti un po' qual è lo stato anche del forum e su a che punto siamo sempre sulla politica della ripubblicizzazione e del forum stesso anche. Ma sì, oggi è la giornata mondiale dell'acqua e era intitolata proprio acqua e cambiamenti climatici, quindi con un'attenzione da parte delle Nazioni Unite, che hanno indetto questa ricorrenza e questo anniversario ormai da diversi anni, a questa relazione, a questa connessione fortissima che sta esplodendo, no? In questi ultimi anni. Abbiamo vissuto a Roma nel 2017 una delle più pesanti crisi idriche che hanno rischiato di mettere sostanzialmente a secco anche la città di Roma, i rubinetti delle persone che vivono a Roma. Però è evidente che, diciamo, appunto, parlare esclusivamente della questione dei cambiamenti climatici in questo momento sarebbe, diciamo, surreale. E il nostro percorso prevedeva una serie di iniziative, di mobilitazioni proprio in queste giornate, in previsione della giornata mondiale dell'acqua. In parte si sono svolte, perché c'era tutta una sorta di carovana, di percorso, di dibattiti, di convegni, iniziative per strada, banchetti in giro per l'Italia, per poi arrivare a costruire insieme, a partecipare dai vari territori a una grande iniziativa a Roma con un convegno al Senato, perché intendevamo, appunto, far pressione per sbloccare la legge per l'acqua, che però è rimasta impantanata presso la Commissione Ambiente della Camera, e poi svolgere un presidio a Montecitorio, però ovviamente non ci sono state più le condizioni per farlo. E quindi oggi ci ritroviamo, credo che appunto ci ritroveremo a uscire da questa emergenza, dove il problema non sarà solo, sì, ovviamente continuare a segnalare che andrebbe approvata la nostra legge, anche perché sarebbe una legge che proverebbe ad evitare alcune crisi, in particolare appunto quella idrica, non, diciamo, sottraendo l'acqua, la gestione dell'acqua dal mercato e dalle logiche di profitto, e quindi guardando più alla garanzia di un servizio fondamentale, alla conservazione quali quantitativa della risorsa. Ma ovviamente credo che dovremmo un po' riragionare un po' il tutto, magari anche insieme ad altre realtà, per capire appunto come fare in modo che che una situazione come quella che stiamo vivendo non avvenga mai più. Ebbene, direi che per oggi possiamo chiudere qua la puntata, rimandando a una nuova trasmissione circa un mese, speriamo in altre condizioni, ma la vedo molto difficile. Comunque, per adesso, un saluto a tutti e tutte. Un saluto anche da parte mia, e mi raccomando, state tutti bene.